America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero alle Nazioni Unite. Il dibattito sulla Libia si è fatto intenso. Ieri pomeriggio ha parlato il ministro degli esteri egiziano, Samet Shoukry. Ha implorato il Consiglio di sicurezza dell'ONU di autorizzare la formazione di una coalizione internazionale che possa legittimamente proteggere la Libia da questa invasione dei combattenti jihadisti che stanno infiltrandosi ormai nel territorio in modo davvero pericoloso. L'abbiamo visto con l'esecuzione dei cristiani copti di qualche giorno fa. Hanno parlato vari ambasciatori, fra questi il nostro rappresentante permanente alle Nazioni Unite, Sebastiano Cardi, un discorso accorato per cercare di salvare la Libia, un paese chiave per noi, un paese davanti alle nostre frontiere, un paese con il quale intratteniamo rapporti molto vicini sia dal punto di vista politico che da quello economico. È stato poi l'ambasciatore Giordano che ha proposto un testo per una risoluzione su cui si sta ancora discutendo. In parallelo a Washington siamo arrivati alla terza giornata, oggi è la terza giornata del vertice sul terrorismo convocato da Barack Obama, e proprio ieri sera il presidente americano ci ha dato un po' il là, il tono di quello che sarà il suo intervento di oggi, il suo messaggio di oggi a questa riunione che ha colto ministri degli interni e per la sicurezza di quasi 60 paesi, incluso il nostro ministro Alfano. Sentiamo Obama. And we are not at war with Islam. We are at war with people who have perverted Islam. Ecco, Obama chiarisce subito che l'Occidente non è in guerra con l'Islam, questo lo abbiamo già sentito più volte, naturalmente non è una novità, ma non guasta ripeterlo perché significa includere quei paesi arabi che fanno parte dell'Islam in questa lotta comune contro questo bubone del terrorismo generato dall'estremismo islamico. Quella del terrorismo, di Al-Qaeda, dell'ISIS, continua Obama, è una sfida per il mondo intero, non solo per l'America, occorre lavorare insieme ai nostri alleati. Ci vorrà tempo, ma li sconfiggeremo. Poi il presidente è entrato più nel vivo, dice: nessuna religione è responsabile per il terrorismo, ha negato che ci sia il clash of civilization, questo concetto sviluppato da Samuel Huntington in un famoso paper pubblicato dal Council on Foreign Relations ormai oltre una ventina d'anni fa, subito dopo la fine della Guerra Fredda. Beh, in realtà davanti a questa retorica dobbiamo renderci conto che invece il conflitto di civiltà c'è un conflitto di valori, ci sono paesi che restano indietro, paesi che invece cercano di portarsi in avanti, e di questo che si dovrebbe parlare oggi a Washington. Temo che si finirà per trovare rifugio più nella retorica che in azioni concrete. Quali potrebbero essere le azioni concrete? Sentiamo di nuovo Obama. But we are here at this summit because of the urgent threat from groups like Al-Qaeda and ISIL. And this week we are focused on prevention, preventing these groups from radicalizing, recruiting or inspiring others to violence in the first place. Ecco, qui entriamo più nel vivo, perché in realtà l'incontro di oggi nella capitale americana, dove parlerà fra poco Barack Obama, è dedicato a un progetto di medio-lungo termine, non alle operazioni militari contro i terroristi, ma a come è possibile respingere, contrattaccare contro la propaganda dell'ISIS, che sta facendo sempre più seguaci non soltanto nel mondo arabo, si sta letteralmente diffondendo a macchia d'olio, questo lo vediamo anche da un punto di vista territoriale, geografico, ma sta addirittura penetrando, come abbiamo visto dopo i recenti attentati, una gran quantità di musulmani che si sentono emarginati, di minoranze che si sentono emarginate anche in Europa. Ecco, questo è il cuore del problema che si sta dibattendo. Oggi dobbiamo, ha detto Obama, essere concentrati sulla prevenzione del terrorismo. È necessario affrontare ideologie contorte come quella dell'ISIS e di Al-Qaeda. Dobbiamo trovare il modo di amplificare le voci di pace, tolleranza, inclusione, e dobbiamo farlo online. Ecco, la parte digitale è molto importante in questa impostazione strategica per contenere questa espansione del terrorismo e di questa ideologia della morte, the dark ideology, come l'ha chiamata Barack Obama. Questi terroristi come Al-Qaeda, ISIS, utilizzano la loro propaganda, ha detto il presidente, nella speranza di raggiungere giovani musulmani e fargli il lavaggio del cervello. Ecco, questo è il là delle riunioni di oggi. Si cercheranno delle piattaforme comuni, si cercheranno dei progetti di sviluppo economico per quelle zone emarginate, anche nei grandi centri metropolitani europei, per poter giocare d'anticipo. Questo è il progetto di medio-lungo termine. Nel breve, come vi ho anticipato, si cerca l'azione nel contesto delle Nazioni Unite. Ha partecipato ai lavori anche il nostro ministro Angelino Alfano. Sentiamolo. È un momento in cui il mondo, perché ci sono decine e decine di delegazioni, deve mostrarsi unito contro il terrore. La forza repressiva delle potenze democratiche è molto ampia e si sta dimostrando anche dopo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, perché tanti paesi, compreso il nostro, hanno fatto delle leggi che hanno inasprito le sanzioni e rafforzato i poteri di prevenzione. Ma non si può completare qui il nostro lavoro deve essere anche orientato a deradicalizzare chi ha orientamento a radicalizzarsi e a tentare di frenare quel rifiuto delle società occidentali che alberga nella testa e nel cuore di coloro i quali pensano di poter fare una aggressione a quei paesi nei quali loro hanno avuto la nascita, dove sono stati educati e dove hanno vissuto. E Alfano poi si muove nella direzione che vi anticipavo prima, la direzione cioè di Barack Obama, è quella cioè di cercare di attaccare frontalmente questa diffusione di ideologia per la distruzione di tutto, soprattutto dei nostri valori. Sentiamolo. Va ricordato innanzitutto che i casi degli attentati nei paesi europei sono nati da cittadini europei e non da coloro i quali arrivano da altro paese o da altro continente extraeuropeo. Ecco, ed è proprio dai cittadini europei ovviamente che arrivano i pericoli, da questi lupi solitari, e dunque nei confronti di queste frange che si sentono emarginate che bisogna operare. Sentiamo di nuovo Alfano. I foreign fighters sono il principale rischio per l'Occidente, così come è molto rischioso il fenomeno della radicalizzazione sul web, cioè di quei soggetti chiamati lone actors o lone wolves, i lupi solitari, gli attori solitari, che in proprio pensano di realizzare il jihad personale e di contribuire a quello globale facendo degli attacchi mirati nel cuore dei paesi europei. Quindi il nostro lavoro è un lavoro di prevenzione, è un lavoro di scambio di informazioni enorme, notevolissimo nei confronti degli altri paesi e nel rapporto con gli altri paesi europei, ma anche con gli Stati Uniti d'America, ed è qui che siamo proprio e anche per questo. E dunque è un lavoro che fin qui ha dato dei risultati, ma non esiste un paese a rischio zero. E il livello di imprevedibilità di eventi come quello che si è verificato a Copenaghen, piuttosto che in Belgio, piuttosto che a Parigi, è elevatissimo. Infine, per chiudere il cerchio, un commento sulla Libia, che è il caso, l'emergenza più importante del momento. Sentiamo Alfano. Siamo convinti che la comunità internazionale debba mettere al top della propria agenda la questione libica. Quello è un fuoco acceso e prima che l'incendio divampi e sia contagioso occorre che la comunità internazionale intervenga. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Maria24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo in momenti molto turbolenti, agitati, tesi, forse è il caso di riflettere, di calmarci. La canzone più appropriata mi sembra questo ultimissimo release, anzi ancora non è stato release, ve lo do in anteprima qui su Maria24, di Sufjan Stevens, No Shade in the Shadow of the Cross. Non c'è ombra nell'ombra della croce, la canzone è il single dell'album Carrie and Lowell che uscirà il 30 marzo. L'artista parla della madre, della sua morte, dell'elaborazione del lutto. Dice: questo non è un mio progetto artistico, questa è la mia vita. È il suo settimo album, un invito alla meditazione sul cristianesimo. Like my mother, give wings to a stone. It's only the shadow of a cross. Ooh. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.